Nuovo campanello d'allarme, per Alitalia resta poco tempo, rischia la fine la compagnia aerea che al 31 marzo aveva nelle casse disponibilità e crediti finanziari a breve termine nell'ordine di 170 milioni, che comprendono i 79 incassati per la cessione delle azioni Air France KLM, ma non ancora il credito verso l'erario di 69 milioni incassato il 2 aprile. Secondo il consiglio di amministrazione resta perciò necessaria un'iniezione di risorse fresche e sono sempre più stretti i margini per tentare di salvare la compagnia e garantire una continuità aziendale su cui ha interferito l'interruzione delle trattative sindacali del 2 aprile per il progetto di integrazione con Air France KLM attraverso un piano autonomo o l'integrazione nel gruppo franco-olandese che, lasciando uno spiraglio aperto, incontra l'apprezzamento di Alitalia. Intanto ha generato malumore la cancellazione del vertice di oggi tra i sindacati e l'azienda. Resta però l'incontro di domani con il governo. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore.